Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo al primo argomento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre col presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo, ben trovato. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, un dato un po' deprimente che è uscito nei giorni scorsi dall'Istat, che ha conteggiato i cosiddetti scoraggiati, quasi 3 milioni di persone. Cioè, chi sono questi scoraggiati? Praticamente, Mirko, come hai detto te, oggi siamo a commentare delle cifre che l'Istat ha sostanzialmente certificato come cifre che hanno raggiunto veramente la soglia da record. Chiedo una, sono due cifre, io parlo plurale, perché una riguarda i disoccupati, che sono 3,7 milioni, e una sono gli scoraggiati, che sostanzialmente sono anche loro sui 3.990.000. Gli scoraggiati sarebbero quelle categorie di persone che sostanzialmente si sono stancate di andare in cerca di lavoro e vanno praticamente a deprimere quella che è già una realtà tragica come la realtà dei disoccupati, e che sostanzialmente gli scoraggiati sono quelle persone che poi alla fine rischiano anche veramente di sfociare in casi di un certo interesse anche sanitario, perché si rischia poi anche di andare veramente in depressione dopo aver tanto cercato, cominciare veramente a rinunciare, a farsi una ragione che il lavoro mai non lo trovano più. Si rinuncia, ma bisogna pur sempre vivere, cioè bisogna pur mangiare alla fine della giornata. Allora come fanno? E il dramma, amico, è questo, che oggi purtroppo, non so, qualcuno ha avuto anche il coraggio di dire è l'aspetto positivo della crisi, io dico che è l'aspetto indecente della crisi, le famiglie si stanno un po' riaggregando, cioè sta capitando quello che è capitato in Grecia qualche anno fa, dove chi ha la fortuna di avere un lavoro o di avere una pensione si trova a dover ospitare i figli, quant'altro, di persone che sostanzialmente oggi non hanno più una fonte di reddito. Ma ricordiamoci che se da un lato ci sono i disoccupati, che sono persone che cercano lavoro e che risultano comunque senza reddito, gli scoraggiati sono persone che veramente lo hanno cercato in tutte le maniere e se ne sono fatto una ragione. A volte questa ragione, purtroppo, Mirko, è anche comprensibile, perché se da un lato è giusto che continuino a cercarlo, dall'altro anche da capire che l'età non aiuta chi sostanzialmente nel mercato ha perso di competitività. Pensiamo a quelle categorie di persone che hanno anche lavorato per 25-30 anni, sono ancora lontane dalla pensione, ma sono anche troppo vecchie perché un'azienda possa investire a fare, per esempio, formazione. Ed è una fascia d'età, appunto, sostanzialmente ancora giovane, perché anche tra chi è di età più bassa, magari verso i 30 anni, c'è qualcuno che è già scoraggiato a quell'età. Allora, io dico sempre a tutti, perché anche a noi all'Adico capitano quasi ogni giorno persone che ci vengono a chiedere di lavorare o ci chiedono se conosciamo qualcuno che assume o quant'altro, è vero che i scoraggiati sostanzialmente si rivolge un po' a tutte le età, anche se in particolar modo sappiamo che la maggior parte dei disoccupati non è soltanto da ricercare al sud, ma anche da ricercare un po' ormai in tutto il territorio e soprattutto in quella fascia d'età compresa tra i 24 e i 35 anni. Un'età che certamente dovrebbe incoraggiare le persone a darsi da fare, ma posso garantire che quello che ormai si trova in giro e quello che ti propongono, veramente ormai c'è qualcuno che l'ha anche definito condizioni da terzo mondo. Quindi una situazione che secondo me dovrebbe cominciare a essere gestita nella maniera corretta, e veramente anche qui il governo dovrebbe cominciare a dare un certo significato a questi numeri, perché sostanzialmente ad oggi non esistono seri interventi che vanno verso a un incoraggiamento da parte delle aziende a voler assumere, salvo qualche piccolo tentativo che è stato fatto, ma è tutto insufficiente perché non sono certo poche centinaia di euro di contributi per un anno e mezzo che possono risolvere il problema dell'occupazione per un'azienda. Se poi ci mettiamo anche le scelte delle multinazionali, cito Electrolux perché è l'ultimo caso, di voler rivedere insomma la propria presenza in Italia con migliaia di persone interessate, allora davvero il tunnel sembra senza fine. Dicevi prima 3 milioni di disoccupati, quasi 3 milioni di persone che non cercano impiego, quindi sono 6 milioni, vuol dire uno ogni 10 di noi, cioè se ci troviamo in 10 in una piazza, uno di noi fa parte di questa categoria. Ah, certamente, e poi dobbiamo pensare che purtroppo quando si certificano i disoccupati, per esempio, non vengono considerati, cioè vengono considerati occupati, per cui noi entrano in questa categoria le persone che nell'ultima settimana hanno lavorato un'ora, quindi sono convinto che sicuramente se ci mettiamo tutti in piazza qualcosa in più può essere, e certamente questi numeri possono essere anche peggiori. Certo, come hai detto tu, gli scoraggiati e i disoccupati sono una categoria molto ampia e sicuramente queste persone meritano veramente molta attenzione, perché noi come l'Adico, ci è capitato anche l'altro giorno che è entrato un padre di famiglia che aveva 49 anni, lavorava da 30 anni e ha finito anche quell'assegno di disoccupazione che per un anno e mezzo è riuscito a beneficiare e non ha risolto il problema. Adesso si trova praticamente disperato, senza soldi e con dei figli che vanno a scuola che non sa come mantenere. In realtà purtroppo di queste categorie di persone sono in realtà veramente preoccupanti, e sono veramente in realtà di persone che ormai veramente vanno a mangiare sulla mensa della Caritas, vagano per il paese senza una meta, ormai si sono quasi rassegnate, anche pur volendo adattarsi a qualsiasi tipo di lavoro. Da ultimo mi ricordo l'esperienza, il caso di un signore di 67 anni in pensione, prende una pensione di 800 euro, gli è rientrato il figlio di 38 anni con un mutuo di quasi 400 euro da pagargli, ed è disperato, è venuto da noi a chiederci se avevamo bisogno di qualcuno, perché veramente non si sarebbe mai pensato che ha detto quasi 70 anni devono in cerca di un lavoretto, di qualcosa per dare una mano a mio figlio disoccupato che gli sto pagando il mutuo perché non trova da lavorare. E ormai allora nemmeno l'ammortizzatore sociale famiglia riesce in alcuni casi ad affrontare questa situazione che abbiamo così descritto, una fotografia che ha fatto l'Istat nei giorni scorsi. Tra un paio di giorni un'altra storia che è stata raccolta e risolta dall'Adico è l'acquisto di un computer, ma che in realtà dietro nascondeva qualcos'altro. Ne parliamo tra un paio di giorni, grazie all'Adico, al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.